Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1863, i falsi risultati della Commissione Massari. La discussione è avvenuta in seduta segreta, come già per la relazione della precedente commissione Mosca. Persino molti deputati non hanno potuto vedere le conclusioni. Pare che a Giovanni Nicotera, compagno di Pissacane a Sapri, eroe garibaldino, sia stata vietata la lettura, nonostante le proteste. Altri hanno potuto dare solo una scorsa, senza prendere appunti. La relazione finale della commissione d'inchiesta sul brigantaggio meridionale, nominata il 22 dicembre 1862, partita per Napoli a gennaio di questo 1863, è stata discussa nelle sedute dal 3 al 5 maggio in una Camera dei Deputati blindatissima. La stampa non ha avuto accesso, ma abbiamo potuto ugualmente recuperare alcuni estratti della relazione del deputato Massari, in particolare sulle cause del brigantaggio. Le prime cause, adunque, del brigantaggio sono le cause predisponenti e, prima fra tutte, la condizione sociale, lo stato economico del campagnuolo, che in quelle province appunto dove il brigantaggio ha raggiunto proporzioni maggiori è assai infelice. Quella piaga della moderna società, che è il proletariato, ivi appare più ampia che altrove. Il contadino non ha nessun vincolo che lo stringa alla terra. La sua condizione è quella del vero nullatenente, e quando anche la mercede del suo lavoro non fosse tenue, il suo stato economico non ne sperimenterebbe miglioramento. Tanta miseria e tanto squallore sono naturale apparecchio al brigantaggio. Sulla base di questa analisi ci si aspetterebbe una chiara indicazione delle responsabilità di chi ha accresciuto la miseria del popolo meridionale, degli approfittatori, dei latifondisti filogovernativi per calcolo. E invece nulla. Massari ha insistito molto sulla superstizione, sull'ignoranza, con termini che a noi sono sembrati perfino razzisti, nonostante siano stati partoriti da un deputato di Taranto. Le plebi meridionali che ingrossano le file delle bande brigantesche sono definite belve selvagge, contadiname, bevitori di sangue, volgari delinquenti e così via. In sostanza il brigantaggio è descritto come delinquenza comune fomentata dai sostenitori dei Borboni e orchestrata da Roma, dall'esule Francesco II e dalla Curia Romana. A questi luoghi comuni si aggiunge il sospetto per un'indagine monca che ha raccolto la voce solo di personaggi di parte governativa o di militari. Nessun brigante arrestato è stato sentito, per quello che sappiamo. Per di più, molti dati, a partire dai risultati della repressione, sono stati secretati dall'esercito. Ha scritto un collega della stampa che si è dovuto fare così, parte per carità di patria, parte perché è vana cosa dirlo. Ci permettiamo di non essere d'accordo. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.